credo che dovremo rimettere in moto l'Europa che dopo l'uscita di alcuni dei rappresentanti dei maggiori paesi europei si è data una fase di riflessione, diciamolo con un eufemismo. Credo che bisogna ricominciare, credo che tra i tanti problemi ci sia quello della missione della Banca Europea, che oggi è soltanto relativa al mantenimento dell'inflazione. Credo che dovremmo ampliare queste funzioni, il tutto in una discussione corale, con una decisione corale, come sempre si deve cercare di raggiungere per quanto riguarda l'Europa.